Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, sono le 11:08. Se il buongiorno si vede dal mattino, questa direi che è l'ora giusta per fare un primo bilancio. Come state? Come vi sentite? Potrebbe andare meglio, penserà qualcuno. Altri invece diranno, potrebbe andare peggio. Due risposte che raccontano due modi diversi di vedere e di prendere le cose. Qui in studio con me il professor Stefano Tirelli, docente di tecniche complementari sportive alla Facoltà di Scienze Motorie dell'Università Cattolica di Milano, ma soprattutto uno degli esperti, uno dei pilastri di essere benessere. Buongiorno. Buongiorno Nicolette, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio 24. Potrebbe andare meglio, potrebbe andare peggio. Sì, diciamo che le due cose vanno di pari passo, ma suggerirei di cambiare il nostro modo di pensare, evitare il condizionale e cercare di utilizzare invece un verbo importante, quasi l'imperativo, perché proporre alla nostra vita sempre un qualcosa legato a delle eventualità esterne, dei fattori esterni, non determina quasi mai la capacità di compiere delle scelte importanti. E quindi dire potrebbe andare meglio o potrebbe andare peggio, in realtà sono sinonimi, in quanto non sono io a decidere, ma cerco sempre quasi una giustificazione alla vita rispetto a ciò che potrebbe farmi andare in un certo modo o in un altro modo. E a questo punto ovviamente io devo sentire dentro di me quale può essere la motivazione che determina quella che è il percorso, una strada che decido io imperativamente di percorrere. E questo necessita di una cosa, di una forza, che è la spinta per la vita, che è spesso l'azione, il coraggio. Ora tutti noi ovviamente abbiamo dei momenti della vita in cui abbiamo più coraggio, meno coraggio, più forza, meno forza. Questo fa parte del nostro essere. Però non dobbiamo scappare, io credo, dalle responsabilità di dirci sono io a voler determinare la mia vita con l'azione, con il coraggio e in poche parole mi do una mossa. Mi do una mossa, infatti oggi parleremo proprio di mosse, ma a 360 gradi, partendo proprio da quel movimento, da quel pensiero che ci fa dire se le cose non mi piacciono, se c'è qualcosa in me che non va bene, che mi impedisce di stare bene, non delego, non ci passo sopra, ma cerco di capire che cosa posso fare, che cosa voglio fare per cambiare. E così presi una grande decisione. Decisi di riprendere in mano la mia vita e cominciare un diario in cui scrivere tutta la verità su Bridget Jones. Nient'altro che la verità. Decisione numero uno. Oh, ovviamente perdere 10 kg. Che diavolo fai? Sto vestendo. Perché saltelli travestita da fantasma? Perché non voglio che tu veda le mie ciccette sballonzolanti. Ecco qui, diciamo, un classico, prof? Ci guardiamo allo specchio, saliamo sulla bilancia e ci sentiamo una schifezuola. Anche qui c'è chi si abbatte e rimanda, chi decide di prendere in mano la situazione e si attrezza, è proprio il caso di dirlo. E qui vorrei subito coinvolgere le nostre amiche e i nostri amici da casa. Vorrei chiedervi di raccontarci in quale occasione, per quale ragione è scattato quel click che vi ha spinto a cambiare qualcosa del vostro stile di vita, e mi piacerebbe sapere anche che cosa avete cambiato e con quali risultati. A volte, come dicevamo, professor Tirelli è il numero che vediamo sulla bilancia a dirci no, ormai devo muovermi. Sì, ci sono dei fattori oggettivi dai quali non riusciamo e non possiamo scappare. Ci sono dei numeri talvolta nella vita che ci mettono un po' così con le spalle al muro. Ci sono a volte delle situazioni apparentemente negative, per esempio in campo sportivo la sconfitta durante una partita per noi importante che abbiamo preparato magari col massimo del nostro impegno, ma che si manifesta con una sconfitta. Allora la sconfitta nel guardare la bilancia con tanti chili in più, la sconfitta sul campo da calcio, la sconfitta per esempio un esame del sangue che non ci aspettavamo con dei valori sballati classici del colesterolo piuttosto che altro. Allora tutto questo non è sconfitta fino a se stesso, ma è motivazione, perché dalla frustrazione ho due scelte, ho due opportunità per reagire. o mi lascio abbattere o cerco di prendere quella che è la lezione del momento dell'apparente sconfitta per acquisire quelle energie necessarie che come la primavera determinano un rifiorire, un rinascere. Siamo ormai in una stagione che... Ormai ci siamo, vero? Sì, siamo qui. Siamo in discesa. Ci affacciamo verso quello che sarà il momento della rinascita, allora integriamoci, no? Quasi armoniosamente. E per esempio ci sono tanti modi per poterci integrare a quelle che sono le energie della natura che ci invitano a riscoprire il rifiorire di una gemma, di un fiore. Ad esempio io posso acquisire la capacità anche di fermarmi un attimo nella vita e un pochino cercare di fare delle contemplazioni, delle cosiddette meditazioni, dei momenti di respiro, perché sono quei momenti nei quali a livello fisiologico ritroviamo il naturale essere funzionale del nostro organismo. Io sono sempre propenso a cercare di trovare l'equilibrio tra movimento fisico e movimento energetico, di cui sicuramente avremo modo di parlare in questa puntata. 800 24 00 24, 349 238 6666, ma naturalmente come sempre potete seguirci su Facebook e su Twitter. Molte persone, professore, cambiano muovendosi, cercando quasi istintivamente nel movimento un'occasione di salute e di cambiamento, una sorta di ritorno alle origini. Lei faceva riferimento all'energia, perché siamo proprio programmati per muoverci, per cambiare continuamente, per passare da uno stato all'altro, ma anche per ritrovare nel movimento quella ricarica che ci mette veramente in moto, non solamente a livello muscolare, ma proprio a livello anche mentale. Sono arrivati dei messaggi su Facebook che voglio leggervi proprio a questo proposito. Sabrina ci scrive: ho ascoltato la vostra trasmissione e mi sono iscritta a yoga 2 sere alla settimana. Dopo tante inattività sono un po' rotta. Questo dobbiamo metterlo un po' in conto, ma serena e felice. Chimera ci scrive: nonostante il lavoro, il marito e un'adorabile cagnolina alla quale dedico molto tempo, non potrei vivere senza svolgere settimanalmente l'attività fisica. Faccio una volta alla settimana sia acqua gym che pilates e poi cammino il più possibile. L'attività scarica tutte le mie tensioni, mi aiuta a stare meglio, mi gratifica e mi rende felice. Mi dispiace solo che talvolta devo fare i salti mortali per arrivare a fare tutto, ma alla mia attività non rinuncerei mai. Lei scrive: mi aiuta a stare meglio, mi gratifica e mi rende felice. Quindi, professor Tirelli, proprio come diceva lei, partiamo dal movimento per arrivare ad un cambiamento generale di mente, di corpo. Sì, e in più Chimera dice: devo fare i salti mortali, e questo è un presupposto fondamentale. Cioè... è sempre movimento. È un movimento ardito anche talvolta. No, per cui è chiaro che dobbiamo impegnarci, non possiamo aspettarci che qualcuno si muova per noi. Allora, il movimento, e quindi dedicarsi a un'attività per noi idonea, necessita dei giusti, normali, tranquilli sacrifici, ok? Dobbiamo ritagliarci quel tempo. Allora, diteci che cosa avete cambiato e che cosa del vostro stile di vita e come siete stati. Da che cosa è partito il desiderio di cambiamento? Che cosa ha fatto scattare quel click che ci ha detto: dai, muoviti. Muoviti, muoviti. E allora muoviti, muoviti. Comincia a muoverti, muoviti. E allora muoviti, muoviti. Oh yeah. Però non basta muoversi, perché l'attività fisica ci faccia bene, dobbiamo scegliere anche quella giusta per noi. Come fare a capirlo? Io direi innanzitutto cercare di capire ciò che non ci piace fare, perché se io prendo un foglio di carta e con una penna traccio una linea in mezzo, posso dire quel che mi piace e scrivere ciò che non mi piace. Io partirei da cercare di evitare di capire da un punto di vista proprio istintivo quello che per me non è idoneo, perché nella vita in generale, certo, a volte dobbiamo fare anche delle cose che non ci piace fare, però nell'ambito dello sport, dell'attività al movimento, io direi di escludere da prima ciò che proprio c'è refrattario, per noi non è possibile fare, e questo è già un aiuto. A quel punto, sull'altra colonna io metto alcune delle attività che possono essere anche le più apparentemente semplici, banali, ma che in realtà sono estremamente funzionali, come il camminare. Camminare è un'attività fisica meravigliosa, perché determina un'attivazione sia da un punto di vista metabolico, ma anche da un punto di vista cerebrale. Spesso dicevamo in altre puntate che camminare è anche fonte di ispirazione, di intuizione, di risoluzione di problemi. E poi io direi che comunque anche in casa propria possiamo ritagliarci uno spazio all'interno del quale poter fare degli esercizi di allungamento, di stretching, di yoga, piuttosto che di tonificazione anche muscolare con l'ausilio di elastici. Però l'importante, secondo me, è cercare di capire qual è la nuova forma del movimento che fa parte del nostro essere in questo momento. È la forma movimento che incide sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista energetico. Ogni nostra attività implica sia il movimento fisico, ma quello che è anche importante è il movimento dei meridiani energetici del nostro corpo. Quindi se avete scelto di muovervi per stare bene, se praticate attività fisica, se questo è il cambiamento che avete utilizzato per ritornare a stare bene, chiamateci 800 24 00 24 perché insieme al professor Tirelli cercheremo di capire se è l'attività fisica giusta per noi, quell'attività fisica che produce quel cambiamento sì. Di corpo e mente, che è l'unico l'equilibrio che ci fa stare bene. Un urlo che ci sono, è quello che cacciamo magari al mattino davanti allo specchio quando pensiamo che nella notte lo abbiano sostituito con quello dell'estetista. Vediamo tutto ingrandito, rughe, pore, occhiaie, anche questo, proprio lo specchio è un'occasione di cambiamento, perché quando ci guardiamo un po' sulla bilancia oppure di profilo allo specchio con pancia, la volta che diciamo vabbè forse questo è arrivato il momento di fare un po' di attività fisica, ma professor Tirelli, come ci dicevamo, lo specchio parla molto. Lo specchio è un elemento affascinante della nostra vita perché ci mette in relazione sia con la parte esterna di noi, ma spesso anche con la parte interna. In quanto sì, è vero che possiamo cercare di intuire quelli che sono dei cambiamenti, in questo caso negativo di cui stiamo parlando, quindi è un aumento ponderale, il peso che non è quello che vorremmo, le rughe e quant'altro, però è anche vero che lo specchio è un pochino il riflesso della nostra anima. Io quando sto bene con me stesso, quando mi sento in armonia, ho uno specchio di fronte a me che mi dà luce, che determina una visione di me stesso positiva. Potrei essere anche molto bello esternamente, in perfetta armonia, ma se sto male dentro, il mio specchio mi mostrerà un qualcosa di disarmonico. Quindi attenzione a cercare di definire ciò che è oggettivamente un dato di fatto e ciò che è soggettivamente, da un punto di vista del profondo dell'animo, anche qualcosa che mi sta dicendo perché non mi permetto di vedermi bello, perché non mi permetto di vedermi con luce di fronte allo specchio. Allora è sempre il nostro punto di incontro tra psiche, mente, corpo, energia. E noi andiamo davanti allo specchio con la nostra derma amica, la dottoressa Riccarda Serri. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno al dottor Tirelli, a tutti gli ascoltatori. È vero, dottoressa Serri, quando siamo giù di tono ci sembra di essere ancora più brutti o più vecchietti. È proprio vero, io lo vedo anche con le mie pazienti che spesso chiedo come va. Ah, oggi mi sento bruttissima e magari invece io è una giornata in cui le vedo particolarmente in forma. Perché uno spesso si vede come si sente, certo. Non si vede, come diceva anche benissimo Tirelli, non si vede oggettivamente. Magari basta pesarsi per una donna e vedersi un chilo di più e si sente immediatamente una cicciona, una cosa che è per cui si deprime, va in tristezza, si guarda, il viso cade, sì. Si vede gonfia, eccetera. E lì è cosa tutto... che invece oggettivamente nessuno nota. Basta magari sorridersi, darsi del tono, ma del tono mentale prima di tutto, e le cose vanno immediatamente meglio. Ma arriviamo a qualche consiglio pratico. Perché io penso, perché la derma amica ci deve dare i consigli pratici, se no che derma amica è? Io proprio settimana scorsa, dopo anni in cui rimandavo, sono proprio andata in palestra a iscrivermi e mi ha mosso il senso di benessere che mi ha dato il movimento durante le vacanze di Natale. Ho detto, lo voglio mantenere, non posso diventare un budino, insomma, mettiamola così. L'alternativa era, vado verso il rammollimento o continuo a darmi del tono? Che consigli dare per migliorare la propria immagine allo specchio mattutino? Magari hai fatto una notte insonne, la sera prima dei bagordi, hai bevuto troppo. Io consiglio quello immediatamente di sciacquarsi con acqua alternata, fresca calda, per una decina di volte, quindi proprio una specie di doccia scozzese al viso. Se gli occhi sono gonfi e si ha voglia e tempo di farlo, 5 minuti sugli occhi, due fettine, due rondelle di patata cruda aiutano molto a riassorbire il gonfiore. Altrimenti si può spruzzare proprio dell'acqua termale spray, oppure tamponare il viso con dell'acqua gasata minerale fredda, che subito ha un'azione calmante e dà un po' di tono. Anche un leggero scrub piuttosto che un passaggio col pannetto di microfibra, migliorando la microcircolazione del viso, aiuta a distendere i tratti e a mandare quel feedback di risveglio anche interiore. Fantastico, questo delle patate lo provo senz'altro, anche l'acqua minerale mi è piaciuta. Dottor... Sì, e poi il mio consiglio proprio sì. È iniziare la giornata e la prima colazione con qualcosa di fresco, un succo, una centrifuga di ananas, di mirtillo, aggiungerci dello zenzero, perché proprio aiutano, fanno molto bene, sono dei concentrati di vitamine e minerali, e iniziare con qualche cosa di fresco, come dice il nostro amico anche Speciani, fresco, crudo e colorato. Mi piace moltissimo questa triade di caratteristiche, aiuta molto anche la bellezza. Poi se invece ci si sveglia col viso rosso, infiammato, magari si ha un po' di acne, ci si sveglia pieni di bruffi, anche qui lo so, è difficile. L'ho provato io stessa, anni fa ho fatto una certa terapia che aveva come effetto collaterale di dare l'acne al viso. Allora la dermatologa, la nemesi della dermatologa è stata svegliarsi la mattina con tutte queste pustole. Capisco perfettamente cosa voglia dire, vai in sbattimento, però siccome l'andare in sbattimento non risolve la situazione, anzi peggiora, vero? Esatto, bisogna un pochino cercare di farsi forza e dire non voglio preoccuparmi, ma voglio occuparmi di affrontare questo problema. Applicare una crema lentiva a base, per esempio, quelle per bebè all'ossido di zinco. Quelle per il sederino del bambino. Esatto. Uguale. E poi oppure sieri lenitivi a base di aloe, perché l'aloe è un grande alleato della nostra pelle, certamente deve essere un aloe stabilizzato, fresco, perché o si prende la pianta di aloe, si spezza una foglia e ci si applica quel gel che c'è all'interno, farlo. O se no si ricorre a prodotti assolutamente qualificati, insomma molto sicuri, che ci sono e come. E poi le donne hanno l'enorme vantaggio del make-up, sfruttiamo questo enorme vantaggio del make-up usato proprio come trucco. Io mi metto un fondo che mi aiuta anche a essere più felice, perché in fondo si vuole essere lì proprio certo. Per essere più felici. Dottoressa Serri, grazie per essere stata con grazie noi, è sempre voi, piacevole. Buona giornata e buona felicità. Anche a lei. Enzo da Salerno, Antonello da Livorno e Marisa da Padova. Precedenza Marisa, buongiorno. Grazie, buongiorno a lei signora, è come se fosse un'amica di casa oramai. Questo mi fa molto piacere, mi rendi felice. Stavo lavando il pavimento, la stavo ascoltando, ho smesso di lavare il pavimento. Oh, anche il professor Tirelli dirà, fatto bene. Beh, però no? Insomma, però... lavare il pavimento è movimento, io è sono movimento, severo, sono molto severo. Sì, ora volevo portare la mia esperienza sì? E quanto ha inciso sul cambiamento, sui ritmi e sulla mia salute. L'attività sportiva, in particolare quello che abbiamo scelto come coppia per poter stare anche insieme e fare movimento insieme, il ballo. È iniziato 10 anni fa così per provare, sì. Poi piano piano, soprattutto da parte di mio marito, abbiamo scoperto che ci piaceva, perché ti dà motivo di socializzare, di essere allegro e soprattutto di crearti un'isola. È un'isola felice. Un'isola, il ballo, veramente. Un'isola felice, ma non in quanto a parte il movimento, ma per l'impegno, perché non è solo il corpo che balla, ma è tutta la tua testa che balla insieme a te. Cioè per un attimo tagli con la realtà, con i problemi, con le problematiche che si ha tutti i giorni, tutti quanti, penso, e per un attimo sei un altro mondo. È vero. Questa passione poi è diventata a livello agonistico. Io ho 65 Caspita, anni. Caspita Marisa, complimenti, che bello il ballo. È veramente un'occasione di benessere perché mette in moto tutta una serie anche di competenze. Ci sono delle ricerche che dicono che ballando non si invecchia. Ecco. Sì, il ballo è un bellissimo modo per muoversi, per muovere le energie interiori, per, come diceva giustamente la nostra radioascoltatrice, tagliare un attimo da quella che la routine. In più devo dire che io consiglio sempre alle persone, alle coppie, di cercare di fare attività fisica insieme, perché è un modo molto bello per scoprire un'altra faccia, spesso a volte non conosciuta, di questo aspetto che è il sentimento dell'amore, che si manifesta anche attraverso l'attività sportiva. Enzo da Salerno, buongiorno. Buongiorno. Senta, volevo dire... Sì. Volevo fare una domanda. Io ho smesso di fumare da circa 4 mesi. Bravo! Questo è un grande cambiamento. Fumavo, ho 46 anni, fumavo dall'età di 18 anni, quindi... Bravo! Mi sono sentito proprio, diciamo, bene. Subito mi sono sentito bene, ho notato subito la diversità dal fumare al non fumare. Però inevitabilmente ho messo qualche chilo, quasi, dai 4 ai 5 chili. Pur non mangiando smisuratamente, anzi mi sono anche stato, è stato anche un po' attento. Che si ingrassa senza, quando si smette di fumare, quindi sono stato attento. Però cerchiamo di chiedere al professor Tirelli se per chi smette di fumare sta facendo questa prova, questo cambiamento di vita importante, e si trova a dover gestire qualche chilo in più perché cambiano delle cose, no? Ecco, ci sono delle indicazioni, un'attività che può aiutare, anche rifacendomi al suo concetto di energia? Sì, innanzitutto devo dire, è meglio essere innanzitutto compiacenti e felici della scelta e accettare qualche chilo in più da prima, per poi sapere che questi chili se ne potranno andare. Io suggerisco due tipi di attività: uno è di carattere aerobico, può essere la cyclette o la bicicletta se uno ha la possibilità di poterla fare, e poi l'altro è camminare insieme a questa, ma l'altro è anche fare tanto stretching, allungamento, perché non sembra, ma lo stretching non è passivo, ma è una dinamizzazione energetica, di cui magari vorrei riparlare, magari appena riusciremo proprio in questo, dopo i mercati, credo. Vedi che, allora, lo dica lei, mercati e meteo? Mercato e meteo, ci vediamo dopo, grazie. Essere e benessere. Buongiorno, bentornati, sono il professor Tirelli. Allora, il benessere parte da noi. Oggi vogliamo proprio dedicare questa puntata alle occasioni che ci portano a prendere una decisione e a occuparci di noi. Quando scatta quel famoso click? A volte scatta, no? Da un click all'altro, all'improvviso. Sì, però ci fa pensare e ci fa riflettere, perché è vero che noi possiamo cambiare il percorso della nostra vita, in questo caso del percorso sportivo, del movimento, in un istante. C'è proprio anche una bella metafora nella filosofia buddista che dice che pur nella più antica, profonda caverna della Terra, noi possiamo illuminarla con un click di una lampada in un solo secondo. Quindi possiamo portare luce laddove c'è stata oscurità per tanto, tanto, tanto tempo. Questo vuol dire che anche dentro di noi possiamo rispolverare e riattivare quella luce, luminosità che ci porta a riattivare il metabolismo, la capacità di fare, di essere. Non bisogna pensare che ci vuole sempre troppo tempo nelle cose, bisogna anche pensare che possiamo decidere di cambiare adesso, in questo momento. È come un po' buttarsi, no? Eh sì, a volte bisogna anche buttarsi, a volte. Anna da Bergamo e poi Antonello da Livorno. Anna, buongiorno. Buongiorno a voi. Io volevo raccontare la mia esperienza. Il mio click è scattato proprio quando ho sentito, seguendo da tempo la vostra trasmissione, sì, quando avete parlato del contapassi. È stato un po' toccare una... Ma sa che questa del contapassi, Anna, ha avuto un grande successo, perché sono arrivate tantissime mail. Secondo me proprio perché il contapassi è una cosa molto facile, piccola, non costa, vero Anna? E che uno infatti. E lei ha iniziato... Anna è caduta, peccato sul più bello, però è vero, perché noi abbiamo bisogno di suggerimenti molto semplici. Sì. Un cambiamento è una cosa piccola che tu ti porti dietro e inizi a fare. quasi ci devi credere, ma non deve rivoluzionarti tanto la vita. E poi improvvisamente inizi a dire, però, ecco, Anna ce lo racconta, ha iniziato magari a prendere questo piccolo aggeggino, a guardare il numero e dire, non sono mica male, posso aumentare di più. E quindi si attiva, quello che lei diceva, proprio questa energia del piacere di... Sì, è un circolo virtuoso che si attiva necessariamente perché il nostro organismo, la nostra essenza, sente indipendentemente dall'aspetto razionale ciò che è buono e bene per noi. Quindi quando iniziamo a fare un allenamento graduale, scatta quel click che appunto, come si diceva, non rivoluziona la vita, ma inizia a determinare un percorso positivo, ecco, quella nasce una buona, sana dipendenza di ciò che è buono per noi. Però se questo click sta per scattare... ma non è, sembra un po' qualche difficoltà e volete dargli non so, una specie di un piccolo aiutino, chiamateci 800 24 00 24. Oggi il professor Tirelli è a nostra disposizione per consigliarci l'attività fisica più adatta anche tra le mura domestiche, capire se quella che stiamo praticando produce tutti i benefici che un'attività fisica per essere giusta dovrebbe produrre, quindi a livello fisico e a livello mentale. Potete lamentarvi anche un po', descriverci se muovendovi vi sentite con più energia oppure più scarichi, perché se si esagera si ha l'effetto opposto. Se avete avuto dei cambiamenti più a livello fisico o a livello mentale, aggiustiamo un po' il tiro, mettiamo sempre in equilibrio somma e psiche, lo facciamo con l'aiuto del professor Tirelli, 800 24 00 24. Antonello, buongiorno da Livorno. Buongiorno a voi, buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno, grazie. Salve professore, io sono conducente di autobus, mi sono lasciato un po' andare negli anni. Quattro mesi fa mia moglie ha insistito per fare un'analisi completa del sangue. Sì. Mi è uscito un po' il colesterolo, un po' di diabete. Dalla sera alla mattina ho cambiato razionalmente il mio modo di mangiare. Cammino tanto, ho perso oltre 15 kg, sto attento a tutte le calorie, sto attento a tutto quello che faccio e tutto quello che mangio. Antonello, io penso che questo si riversi positivamente anche su tutte le persone che lei con diciamo professionalità porta in giro col suo autobus ogni giorno, perché nel momento in cui lei riesce a fare scattare questo click interiore si riflette in modo automatico anche sulla vita esterna, proprio la luce che abbiamo dentro si riflette illuminando quello che è la realtà intorno a noi, e io devo farle i complimenti perché è un esempio positivo di quello che si diceva poc'anzi. Il click nasce, ecco, a volte come in questo caso da una paura, perché vedere gli esami del sangue alterati, sballati come si suol dire, fa paura, però talvolta ci sono anche dei click che nascono proprio perché è una presa di consapevolezza intuitiva del momento. Tutte le mattine dai 5 ai 15 km di corsa, ci scrive Stefano da Verona, in funzione del tempo a disposizione, l'ipertensione ora mi fa sorridere. Lo sappiamo bene che il benessere dipende in gran parte dalle scelte che facciamo, homo faber fortune sue, per questo anche quando ci sono delle situazioni che non ci piacciono e che ci procurano malessere possiamo intervenire. Questo è il messaggio che vogliamo dare oggi: non serve alimentarsi, fare finta di niente, passare oltre, conviene invece fermarsi e capire che cosa sta succedendo, cogliere un po' l'occasione per imparare a fare qualcosa di piacevole e salutare per noi, ce lo meritiamo. In linea con noi abbiamo la dottoressa Lucilla Titta, ricercatrice nutrizionista all'OIEO, l'Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dottoressa, mancanza di energia e di voglia di fare. Noi oggi parliamo di cambiamento, di questo famoso click, ma a volte siamo proprio trattenuti perché non ce la si fa. Astenia, come la chiamate voi, un disturbo che coinvolge proprio corpo e mente, che può avere, lo sappiamo, tante cause, ma da cui si può partire proprio per cambiare qualche cosa. Dottoressa. È vero, senz'altro vero, che da uno stato di malessere in generale possono nascere invece dei buoni propositi, e l'astenia, la debolezza può essere appunto un segnale che ci fa prendere più contatto con noi stessi e quindi con il fattore ambientale, che secondo me, ma non solo secondo me, è il più importante di tutti, cioè l'alimentazione. Assolutamente sì. siamo sempre pronti, no, a dire che l'alimentazione ha un effetto sul nostro corpo, dicendo che, non so, abbiamo digerito male, oppure, no, abbiamo dormito male perché abbiamo mangiato troppo la sera prima. Però quando dobbiamo considerare l'alimentazione come un fattore ambientale che incide proprio sul nostro stato di salute, sì, facciamo sempre un po' di è vero, ci ha proprio così, ha messo il dito nella piaga, dottoressa. E invece ha un forte effetto, quindi anche sullo stato di astenia, di debolezza, che può avere, come ha detto lei, molte cause diverse, anche ormonali per le donne, o comunque sì, effettivamente di insomma, anche di semplice stanchezza o in periodi di stress, può essere invece, può anche dipendere dall'alimentazione, oppure sicuramente può avere un beneficio attraverso l'alimentazione. Ecco, e quindi su che cosa ci suggerisce di puntare, ad esempio? Allora, innanzitutto bisogna fare una sorta di valutazione, no, dello stato di fatto, come si fa in ambiente scientifico, dice, come sto mangiando, mi sto nutrendo bene, sto ponendo attenzione alla mia dieta, a quello che mangio. E se siamo sinceri lo sappiamo, no? La risposta è abbastanza viene. Riconoscerlo però, insomma, aiuta. E dopodiché cercare di operare dei cambiamenti, sempre io consiglio positivi, mai di privazione, mai di regola ferrea, ma proprio dei cambiamenti nelle abitudini da portare avanti sempre, certo, non solo per un periodo, che ci possano aiutare. E per, diciamo, per dei suggerimenti su questi cambiamenti abbiamo tanti strumenti di informazione, le linee guida, certo, tutti degli istituti riconosciuti. Quindi cercare appunto di avere un'alimentazione a base vegetale, preoccuparsi sempre come prima cosa dell'apporto dei vegetali, che ci danno anche tutti i sali minerali che alcune volte sono proprio la cui carenza è alla base della sensazione. Ecco, quali sono i sali minerali che rischiano di essere in una quantità ridotta o insufficiente, sì, e che possono in qualche modo spiegare la nostra stanchezza? Perché se noi dobbiamo far scattare il click, dobbiamo essere in forma, no? Certo, tipicamente sono magnesio, potassio, ferro. Un po', diciamo, tutti i sali minerali sono importanti, anche lo zinco. Però dovendo scegliere? Ma in realtà non c'è mai il salvifico, l'alimento salvifico che contiene il sale minerale giusto, è molto soggettivo, è anche soggettiva la carenza o la, certo, carenza nell'assorbimento. Bisognerebbe essere, diciamo, sicuri di avere un bel ventaglio di tutti questi sali minerali nella dieta quotidiana, e questo ce lo può dare, ripeto, tranquillamente, senza integratori, senza nulla, un'alimentazione varia dal punto di vista vegetale. E quindi sottolineo, perché uno immagina subito, vabbè, frutta e verdura, la, sì, solita cosa. Invece gli alimenti vegetali non sono solo la frutta e la verdura, che devono ovviamente essere onnipresenti, ma anche i legumi, i cereali integrali, i derivati da cereali integrali, certo, e non ultima fonte veramente eccezionale di tutti questi sali minerali che abbiamo detto, la frutta secca. Frutta secca, fantastica. Come frutta guscio, quindi sì, mandorle, i noci, semi, nocciole. Ecco, semi oleosi anche. Esattamente, esattamente. Quindi, da qui variando ed equilibrando l'energia che ci sembra in qualche modo ridotto, scemare, si recupera. Crediamoci e coccoliamoci. Dottoressa Titta, la ringrazio per essere stata con noi. Andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Buongiorno, a presto, dottoressa. Arrivederci. Essere e benessere. Ci siamo dati una mossa, però non sempre abbiamo scelto la direzione giusta, perché in qualche modo siamo cambiati ma non siamo soddisfatti, oppure proprio muovendoci ci rendiamo conto che i vantaggi, i benefici che pensavamo di ottenere non sono poi all'altezza del sacrificio, mi passi questo termine, professore. E comunque questo ci dice sempre che il movimento è utile, perché ci dà anche delle informazioni che talvolta non ci aspettiamo di avere. E per esempio io mi muovo ma sto peggio di prima. Allora bisogna ovviamente cercare di capire che tipo di movimento sto facendo, se è idoneo a quello che io sono in questo momento, anche perché ognuno di noi è sempre diverso, no? C'è questa mutazione costante del nostro essere, sia da un punto di vista mentale che dal punto di vista fisico. Allora, il movimento sano non fa mai male. Sì. Quando abbiamo dei campanelli di allarme di astenia, di debolezza, di infiammazione e quant'altro, io suggerisco di fermarsi e di, in questo caso, di proporsi a qualche professionista di scienze motorie, qualche professionista che si occupa di allenamento in modo veramente globale, e qui io insisto sempre da un punto di vista fisico ed energetico, perché dobbiamo veramente cercare di chiarire il tutto. Ad esempio, lei mi dice dal punto di vista fisico ed energetico, Francesco da Ferrara, sono subito da lei, ma se no mi scappa lì la cosa. Ci sono degli sport, delle attività sportive che fanno lavorare alcune parti del nostro corpo più di altre. Dato che lei mi diceva che anche nei libri della medicina cinese non viene suggerito ad esempio uno sport in particolare, ma vengono suggeriti tutti degli esercizi di allungamento, mi chiedevo se nel corso di questi minuti che ci separano dal termine della diretta magari può aiutarci a compensare, no, alcune attività sportive per chi corre, per chi invece nuota, per chi va in bici, per chi, in modo che si riesca a armonizzare quel... Sì, ci si rifà sempre a quello che è il concetto di equilibrio tra yin e yang, quindi tono, rilassamento, contrazione, rilassamento. Allora, il calciatore che è costretto, suo malgrado, a compiere sempre gli stessi gesti, piuttosto che l'atleta, il cestista, quant'altro. Il calciatore viene ripagato bene, no? Per questo. Dipende dalle categorie. Vabbè, insomma, però. No, però diciamo che in generale anche colui il quale ama giocare a calcetto piuttosto che altro, è chiaro che è uno sport di contrazione, quindi manca quello che è l'elemento compensativo, è l'elemento di allungamento. Però è vero anche che chi si dedica principalmente a yoga, Pilates, spesso necessita anche di un qualcosa di compensativo, che sia l'utilizzo per esempio di elastici, qualcosa che vada a contrarre, a tonificare. Mi piace, quindi 800 24 00 24, intervenite, chiedete e compensate con noi, anzi col professor Tirelli. Francesco, eccomi. Sì, salve. Mi scusi. Niente, spiegavo che il mio click è successo 6 anni fa, io ero un ozioso tremendo, dico subito che pesavo 92 kg, adesso ne peso 76, quindi sono già arrivato all'epilogo. E praticamente in occasione della nascita di mia figlia io ho detto: no, mia figlia mi deve vedere bello. Carino, Francesco! E praticamente dal primo mese, appunto, dal terzo mese, va bene, ho incominciato a correre piano piano, come esattamente diceva prima il professore, graduatamente, ma piano piano, proprio divertendomi. E praticamente alla nascita di mia figlia, esattamente, mia figlia è nata a novembre, io a ottobre ho fatto la mia prima maratona, che ho dedicato chiaramente a mia figlia e alla mia compagna, l'ho chiusa, chiaramente non mi importava del tempo, ma certo, mi importava arrivare al traguardo, è contentissimo, e adesso e addirittura sono arrivato al livello che uso le maratone, quindi 42 km, 195 metri, come allenamento, perché ogni anno invece mi diverto a correre sempre graduatamente e soprattutto sempre divertendomi una famosa gara di 100 km. Caspita, vede, tutto per la donna della sua vita, il grande amore. Assolutissimamente, perché... sì, e perché tutte le volte che porto la medaglia di partecipazione io dico sempre che è sua, cioè è la sua medaglia, infatti lei si diverte tanto poi a mettersi complimenti Francesco. È un divertimento tutto qua, sono diventato quasi un, cioè cerco di fare un po' di proselitismo ai miei amici, anche se comunque è molto difficile, perché capisco però che se non nasce da dentro, bravo, se non scatta quel famoso click, come dicevamo col professor Tirelli, Francesco, siamo inchiodati alla sedia. Professor Tirelli, quindi ad esempio Francesco, un maratonete diventato, lui avrebbe bisogno di esercizi di allungamento. Eh sì, la maratona diciamo è un bellissimo sport, però bisogna anche realisticamente dire che protratto a lungo comporta degli aspetti abbastanza, non dico negativi, comunque di un certo livello, proprio perché l'ossidazione cellulare tende ad aumentare. Allora a quel punto io andrei a suggerire degli esercizi di ottimizzazione energetica, quali possono essere lo yoga, l'allungamento, lo stretching, il training energetico, che vanno a rivitalizzare quelli che sono i tessuti che necessariamente in una maratona vengono così fortemente utilizzati. Una piccola parentesi, mi piace molto quest'ultimo intervento, perché io suggerisco sempre ai miei atleti e alle mie atlete anche di ricordarsi che abbiamo una sorta di tranquilla così responsabilità nei confronti di noi stessi nel volerci bene e volerci vedere belli anche, però nei confronti anche della persona che si ama, che può essere il compagno, la compagna, il figlio, la figlia, e dire: tu mi hai conosciuto in un certo modo, io desidero comunque mantenermi in quel modo, perché è meglio non lasciarsi andare. Assolutamente, meglio non lasciarsi andare e anche cercare di scegliere delle attività che ci facciano proprio stare bene, ci piacciono, perché questo è fondamentale. È all'apparenza una banalità, ma noi dobbiamo, quando facciamo qualche cosa per noi, capire che lo facciamo con piacere e deve essere rigenerante. Ma è anche un grandissimo privilegio quando io corro, quando io mi allungo, cioè so che ho quell'energia in quel momento che mi permette di fare, che non è scontata. Allora ricordiamoci che abbiamo necessità veramente, come si diceva giustamente, di fare cose buone e belle, di essere privilegiati di poterlo fare. Questo è veramente ridere e sorridere mentre si corre, è importante, anche se qualcuno ci scambierà per un matto, però fa niente, lo possiamo fare. Perché diventiamo poi contagiosi, piacevolmente contagiosi. Sì, sì, sì. Il benessere che procuriamo a noi possiamo poi condividerlo, diventa poi un'occasione di benessere anche per gli altri. L'esempio positivo è la cosa più importante. Insomma, ci tocca lavorare per mantenerci in salute, per stare sempre meglio. Ringrazio il professor Tirelli per essere stato con Grazie noi. Grazie a voi. Per averci aiutato sempre a lavorare, quello che cerchiamo di fare in ogni trasmissione, sul corpo e sulla mente, a tenerli proprio uniti, perché si condizionano, come dicevamo tante volte a vicenda. Abbiamo dedicato una puntata proprio allo yoga, proprio per capire quanto anche il respiro può aiutare a mettere in comunicazione queste due dimensioni. Vi devo salutare, Carmelo Lauricella, come sempre in regia la parte tecnica, e Laura Vanossi splendidamente in redazione. Vi salutano anche loro e noi torniamo domani. Essere e benessere.